Una questione sta nel fatto che anche quest'anno, come forse qualcuno si ricorderà, è successo anche l'anno scorso, Udine ospiterà il 14 ottobre la partita tra Italia e Israele. Di fatto questo è un evento che viene utilizzato per rifare un'immagine, quelli bravi dicono sport washing, per tutte le politiche israeliane, cioè far vedere il lato bello, il lato sportivo delle competizioni dove soltanto i grandi valori hanno posto, viene utilizzato per coprire l'immagine di uno Stato che sta compiendo atrocità e genocidio in Palestina. Inoltre ci sono anche varie discrepanze tra il fatto che Israele possa essere ospitato nelle competizioni della FIFA, dal momento che l'Israel Football Association ospita ben 12 squadre che hanno sede nelle colonie presenti illegalmente nei territori palestinesi occupati, contraddicendo in questo modo sia il diritto internazionale sia l'articolo 64 del regolamento della FIFA, che dovrebbe dare adito a un'espulsione immediata della Federazione Nazionale Israeliana. Inoltre, secondo noi, ospitare questa partita viola anche tutte quante le regole morali della FIGC e della FIFA, dal momento che Israele ha anche preso parte attivamente, insomma, all'uccisione di lavoratori e lavoratrici del mondo dello sport. Sono attualmente, le stime più aggiornate dicono circa 790 lavoratori e lavoratrici, e per cui insomma sono cose che con i valori sportivi non dovrebbero avere niente a che fare. Lo sport non è l'unico ambito in cui Israele cerca di fare washing, pensiamo ad esempio alla musica con l'Eurovision Song Contest e altri ancora, quindi è proprio una strategia? Sì, assolutamente, sport washing o anche il caso per esempio, come dicevi tu, dell'Eurovision, fanno parte di una strategia insomma premeditata, nel senso far vedere una faccia più bella, più presentabile, alla fine a chi non piacciono le partite di calcio dove alla fine la squadra più forte vince, ci sono delle regole che vengono rispettate e c'è praticamente quasi un duello cavalleresco, diciamo, e sono cose che vengono utilizzate per cercare di oscurare quello che in realtà sta avvenendo in contemporanea, perché anche spesso quando si parla di queste partite si tende a dire ma lasciamo la politica fuori. Beh, sarebbe una bella cosa riuscire a lasciare la politica fuori e non pensare a tutto quello che sta succedendo, senz'altro è una cosa comoda, ma secondo noi fa parte appunto di un piano premeditato. Non possiamo chiedere alla gente di non vedere quello che c'è oltre la partita, quello che c'è dietro questo velo. Cosa chiedete rispetto a questa partita? Rispetto a questa partita noi chiediamo assolutamente alla FIGC l'annullamento, perché non pensiamo che sia anche onorevole per il calcio italiano. Inoltre chiediamo immediatamente l'esclusione di Israele da ogni competizione della FIFA, come è stato fatto peraltro, se ci ricordiamo, nel 2022 in pochissimi giorni con la Russia. Vediamo infatti questa doppia morale. Per la Russia le sanzioni sono state anche dal punto di vista sportivo quasi immediate, mentre vediamo che insomma a moltissimo tempo ormai da questo genocidio Israele continua tranquillamente a presenziare a tutti gli eventi sportivi. Un'altra cosa che chiediamo è rilanciare questo nostro appello alla mobilitazione, sia qualunque realtà interessata, sia i singoli, e di riuscire a venire alla manifestazione che come comitato e assieme alla comunità palestinese del Friuli, Venezia Giulia, del Veneto, a Salam, Ragazzi dell'Olivo, BDS Italia, Cassa dell'Evoluzione stiamo organizzando. Per cui rilanciare ed essere presenti a Udine il 14 ottobre.